Attenzione, credo che fra pochi secondi vi verrà la tentazione di interrompere questo video. Vi prego invece di andare in fondo, di vederlo fino alla fine, perché soltanto alla fine ne capirete il significato concreto. Adesso vi sparerò un elenco di parole e dopo mi direte che ne pensate. Vi farò una domanda. Difficile, faticoso, pesante, avrei potuto, forse, odioso, no, paura. Tanto ormai avrei dovuto, ti faccio vedere io. No, uffa, uffa, uffa. Vedremo. Cattivo, odio, rancore, avversario, nemici, schifo, distruggere, non ce la faccio, cattivo, impossibile. Eliminare, ma come sei? Complicato, rassegnato, non ci pensare nemmeno. Ok, ecco la domanda. Come ti senti dopo aver ascoltato tutte queste parole? Adesso ti dirò altre parole. Sfida, amore, possibile, creare, posso, entusiasmo, vita, che bello, sublime, intuizione, fantasia, armonia, collaboriamo, insieme, comprensione, fratello, amici, la vita è meravigliosa. Grazie, meraviglioso, splendida idea. Posso farcela. Felicità, sono in pace con me stesso. Serenità, infinito. Regalo, comunione. Stessa domanda di prima. Come ti senti dopo aver ascoltato questo secondo blocco di parole? Ok, il vocabolario italiano è strazeppo di parole e non possiamo certo scegliere di eliminarne qualcuna per usarne soltanto altre. È pur vero che certe parole evocano sensazioni positive, altre invece sensazioni negative. Allora io credo che sia semplicemente un problema di dieta. Non sarebbe allora meglio una dieta con qualche parola negativa in meno e qualche parola positiva in più? Ma non soltanto per gli altri, nella nostra comunicazione, nel nostro rapporto con loro. Prima di tutto con noi stessi, una dieta di parole che riguarda prima di tutto noi stessi, perché le parole che noi esprimiamo, le parole che utilizziamo, creano anche il nostro mondo interiore e il nostro modo di vedere il mondo. Queste parole hanno un impatto prima su di noi, che le pensiamo, poi le pronunciamo, e poi hanno un impatto anche sugli altri. Nel prossimo video ti farò un esempio ancora più chiaro e limpido di come le parole che scegliamo di utilizzare determinano la nostra realtà interiore e il nostro modo di approcciarci alla realtà. Ok, se mi hai ascoltato fino alla fine, allora dai, lascia un mi piace. Come diremmo qui a Genova, non costa niente. E se vuoi ricevere le notifiche per i prossimi video, iscriviti al canale e attiva anche la fatidica campanella, così non ti perderai nessuna nuova uscita di ogni video che esce ogni lunedì mattina. Anche la campanella, detto tra noi, non costa niente attivarla.